questa storia si inserisce anche, se ho ben capito, anche l'omicidio Moro, perché Moro nel suo linguaggio contorto e zantito, ma nell'ultimo discorso del 28 febbraio, che ricordo giorni prima di essere partito, aveva di nuovo cercato di portare, questo è la mia interpretazione, il PC al governo. Tutto ciò non piaceva agli Stati Uniti, perché avrebbe dimostrato la possibilità che il Partito Comunista potesse essere democratico, e quindi che i comunisti non mangiano tutti i bambini. Non piaceva all'Unione Sovietica, perché avrebbe dimostrato che lo stesso questo comunismo poteva essere democratico e non imperiale come era allora, e direi come dalle elezioni di ieri possiamo dire sia tuttora adesso. Non piaceva ad Israele, perché aveva paura che i paesi arabi si sarebbero in qualche modo svegliati sentendosi protetti dall'Italia, e quindi in realtà a livello internazionale non piaceva. A livello nazionale c'era chi era d'accordo, chi non era d'accordo, ma questo, questa è politica, questa è storia recente, che ricordo. Un'altra cosa che mi ha affascinato molto in questo libro sono le varie domande. Ecco, questa ipotesi all'inizio viene poi confermata nelle parti conclusive, e il libro presenta come un palo tutti gli argomenti sui quali si fonda questa, all'inizio viene presentata come ipotesi e poi come stessa, almeno se ho ben capito tutto questo, e alla fine con uno sguardo che riguarda anche il mondo da Yalta e di poi, si dice anche, sono perfettamente d'accordo, questi grandi blocchi della destra e della sinistra, tutto sommato, già da allora non volevano un qualche cosa che favorisse una integrazione europea, e questa è la cosa, non è la storia, è la contemporaneità di ciò che viviamo, no? Una Europa unita da fastidio per qualcuno. Sui misteri più affascinanti del libro, ma volevo dire ancora, abbiamo ancora oggi esempi, quantomeno grossi sospetti di interesse degli stati stranieri in Italia, se non altro per quello che si chiama, un linguaggio giornalistico da straordinario rendition, la storia di Abu Omar, c'è il processo in corso, per cui parliamo solo di sospetti, però certo che qualcuno deve essere non italiano, o se italiani con l'aiuto di altri sia arrivato nel territorio italiano, ha portato via qualcuno, che qualcuno magari è giornalista, ma con il sistema della tutela della sovranità dello Stato e impedisce questa cosa. Nel libro che mi ha particolarmente, devo dire, avvicinato dei misteri, c'è quello del quinto capitolo, che si chiama Dette Nuove Brigate Rosse, la svolta del 74. E il sesto, la prigione di via Montancini alla banda della Bagnana. Vi ha già parlato di questa seconda cosa, Giorgio Galli, certo non mi ripeto, direi il testo, quello che lui ha detto benissimo. Certo è che la prigione che nel libro si sostiene di Moro in via Montancini, se c'è stato poco, per una serie di argomenti, che proprio qui è evidentemente di ovvio il processualista che parla, argomenti che sono difficilmente superabili, primo di tutti. Se fosse stato lungo in 2 metri per 4, il suo apparato muscolare sarebbe stato ammortizzato, come è successo per altri secretari che sono stati meno di 55 giorni chiusi in un sistema giusto, e invece la autopsia di Moro ha rivelato che il suo apparato muscolare era perfetto. Poi sono state trovate, anche questo si dice nel libro, tracce nei suoi vestiti e nell'arena rossa nella quale ho trovato, di una terra rossa, di una sangue rossa che si trova solo a 1,47 km, mi pare ricordare, a nord di Roma, sulla via Regia. Allora è difficile pensare, come hanno detto alcuni dei cosiddetti brigatisti, Sì, sono andati lì, hanno preso anche il confondere le braccia, come Roma era tutta assediata, tutti guardavano e questi si muovono con una macchina e non devo cadere dietro un po' di cadere e si trovano lì. Così. Quindi la visione di Via Montalcini è stata per poco tempo. Ma allora la domanda è: ma come mai tutti i brigatisti pentiti che hanno parlato del caso Moro, che per tempo ci sono stati in 5-6, hanno sempre detto che il caso Moro si sa tutto, però solo nell'82, quindi 3 anni dopo la fine, perché Moro è stato rapito a marzo, è stato trovato morto a marzo del 79, quindi 82, quarta di no, si è tirato fuori la località di questo pittore. Perché questo segreto è stato conservato così tanto? E noi ancora adesso, perché il motivo che vi ho detto non può essere stato solo di Montalcini, quindi perché questo segreto? Allora uno conserva un segreto così apparentemente innocuo se c'è un motivo. E qual è questo motivo? Ci sono dei fatti che sono esposti nel libro che sono affascinanti. Via Montalcini avevano sede e abitavano nei campi italiani, c'erano molte sedi dei servizi segreti e come peraltro il Via Gravoli, che era un covo del DR, è una strada circolare con una sola via di uscita e mai che erano bravissimi nella loro strategia. Hanno trovato come covo un posto da dove era difficile scappare e dove per caso però anche lì l'accantamento dove stava questo covo era per interposta società di proprietà dei servizi segreti. E queste sono le cose abbastanza affascinanti, sono tutti punti sui quali poi si costruisce quella che è presentata come covo che poi arriva ai comitati, cioè il rapimento di Moro è servito forse una sicurezza internazionale, non vi farete poi voi un'idea di questo. Certo che altra cosa, come mai i servizi segreti e i carabinieri che hanno sempre avuto il più classico dei sistemi investigativi che sono gli infiltrati, come mai dal 74 in avanti questi infiltrati non ci sono stati più, se non pochissimi? Come mai la professionalità, come pure essendo riconosciuta alta dai servizi segreti italiani e delle forze dell'ordine, ha proceduto nei giorni immediatamente dopo il sequestro di Moro a quello che Vari Galloni ha definito strategia dello stop and go e che scia. È stato lei? Sì. Stavo male. E che Sasha ha detto parate, la strategia di parate, l'operazione di parate. Io personalmente ricordo che così aveva detto bisogna usare le bande chiodate. Le bande chiodate si mettevano davanti alla frontiera per gli spalloni che correndo la macchina venivano a bucare le gomme e quindi si fermavano. Le bande chiodate in Italia per la legge che arrivano, una roba ecco. Non è stato fatto nulla di serio e allora, dice l'autore, sarebbe un torto alla professionalità riconosciuta dei servizi segreti delle forze dell'ordine pensare a una loro insipienza proprio in quel momento. Ancora, come mai sono state messe a capo, sono stati cambiati tutti i vertici delle forze dell'ordine sulla piazza di Roma, poco prima del sequestro Moro. E poi tutti i nuovi nomi sono stati trovati tutti quanti nelle liste della P2, questo è un altro dato di fatto. Gli stessi autorevoli esperienze delle forze dell'ordine come il generale della Chiesa e il generale Romeo hanno ammesso l'esistenza di infiltrati quantomeno nei gruppi anarchici. E è difficile credere che non ci fossero dopo, sta di fatto, però le strutture che facevano capo efficientissime sia dalla Chiesa che gli altri furono poco prima che si trasformò in qualche modo allontanate di tutte di fatto. Sono tutte cose abbastanza. E l'altro punto, allora, è la svolta del 74. E qui l'autore dedica il suo capitolo più ampio a una delle capi delle guerre da Sasha Svana, che è la più di Moretti. Moretti fa parte del gruppo fondatore del 69, poi se ne lontana, poi rientra nel 74, cioè nel 74 già dirigente, però stranamente lui sfugge per due mesi alla cattura. La prima volta nel 70, no, 72, quando è partecipato l'incontro via. Esatto. E stranamente in questo comodo dove Moretti stava per recarsi per una riunione dei brigatisti, il questore di Milano decide di fare proprio una conferenza stampa in questo comodo. Quando lui arrivò, naturalmente vedo com'è, vide che c'erano una serie di macchine strane, scappò e riesce a non mettere la testa. Questa è la seconda volta che l'8 settembre del 74 sono arrestati Curcio e Franceschini, arriva una telefonata, ma no, non è poi uscita, è il posto di Goliardo. Allora, l'ipotesi che fa l'autore anche qui fondata su precise testimonianze e dati controllabili è che il personaggio dell'epoca famoso, Franco Girotto, è stato il tramite del Ministero dell'Interno per far sì che venissero arrestati Curcio e Franceschini, ma non Moretti. Probabilmente con la complicità del Mossad, cioè dei servizi segreti italiani e italiani. Una cosa è certa, che all'epoca Curcio è stato un dirigente della Fotografia Palese. Fu fotografato e lo porto a comprare sui giornali con una stella, ma non era la stella 5 punti, era la stella 6 punti, che è la stella italiana. Moretti dice: mi sono sbagliato. Ci credo, che uno come lui prende una stella, per un altro, ma tutti i comunicati precedenti e successivi avevano forse stato segnato qualche cosa. Certo è che da quando Moretti è diventato veramente il leader delle guerre, la situazione di salto di qualità con il sistema di ordine dei processi invece sempre più grave, e da originali atti meno fluenti si arrivò poi ai sequestri e agli omicidi che sono arrivati. Più l'Italia era destabilizzata e inaffidabile, più Israele diventava paese affidabile per tutte le politiche mediterranee. Questo va detto alcuni tempi, tra cui i legali. È chiaro che qui non potranno arrivare, come ho detto all'inizio, a una prova giudiziaria, a una prova che porta la condanna ai fratelli. Però a farvi pensare, a farvi delle idee sulla responsabilità e su tutto ciò che c'è stato e che si è culminato da un altro che si è preso modo e prima ancora con altri gravissimi dubbi, perché come disse un grande critico della strada di Milano che da allora non vuole lasciare, non è mentito, nel senso che non ha mai collaborato, vuole stare in carcere, c'è ancora. La strategia di parlare degli anni 70, prima di questa Fontana, era semplice, era destabilizzare per stabilizzare, quanto più si crea casino, tanto per usare un termine che tutti capiamo, quanto più si ha bisogno poi di pensare a un uomo forte o a qualcuno a cui affidare le sorti del paese. E questa purtroppo è stata la storia degli ultimi anni dell'Italia, degli anni di Piombo, ed è una storia che secondo me si merita di essere ancora indagata, se non altro per capire un po' di più di quello che sappiamo adesso. Ecco perché il rigore di questo libro nella parte